24 mattino. Signori, rieccoci in diretta, 24 mattino, è giunto il momento dei cani e dei gatti, si staglia il profilo risorgimentale di Oscar Giannino che oggi, non so se lo posso dire, è affiancato da Lino Milan ed è dotato di turbante. Ma possibile, adesso devo levarlo. No, no, tieni, è bello, è carismatico. Con noi il direttore della stampa, Maurizio Molinari, buongiorno e subito, immediatamente... Commentiamo la notizia del giorno, la scelta, l'annuncio degli Stati Uniti e del suo presidente Trump di spostare l'ambasciata americana a Gerusalemme. Gesto gravido di simboli e di conseguenze. Molinari, buongiorno. Buongiorno. Che commento fai? È veramente uno di quei passaggi della storia per cui una scelta diplomatica può indurre grandi conseguenze? Eccoci. Eccomi qua. La situazione è la seguente. Il presidente Trump ha adottato una scelta che riconosce una situazione di fatto. La situazione di fatto è che dal 1949 Gerusalemme è la capitale dello Stato di Israele. È vero che riconoscere le situazioni di fatto in Medio Oriente può comportare sempre dei momenti di grandi tensioni, di grandi evoluzioni, di cambiamenti. Ad esempio, quando 40 anni fa il presidente egiziano Sadat decise di aprire a Israele, di gettare le basi per siglare l'accordo di pace, scelse di andare a Gerusalemme e di parlare alla Knesset, il Parlamento israeliano. Il Parlamento si trova a Gerusalemme, la sede del governo si trova a Gerusalemme e la Corte Suprema si trova a Gerusalemme. La realtà vera è che qualsiasi visitatore di questa città sa benissimo che è la capitale dello Stato di Israele. Il punto è che la città è anche rivendicata nella sua parte orientale dai palestinesi come capitale del loro futuro Stato. Da qui l'importanza dei termini che questa sera alle 7 italiane il presidente Trump adopererà, perché se il presidente Trump, come la Casa Bianca ha suggerito nel briefing di ieri sera, non dirà Gerusalemme capitale unificata, a quel punto lascerà lo spazio per un successivo passo che potrebbe premiare anche le aspirazioni nazionali dei palestinesi. Ah, quindi potrebbe essere un doppio passo, cioè forzare sulla capitale con questa scelta e allo stesso tempo aprire un riconoscimento. Lo ritieni possibile, direttore? Io credo che il Medio Oriente sta attraversando dei momenti di profondo cambiamento a causa del riavvicinamento fra Israele e Arabia Saudita in funzione anti-iraniana. Questo crea sul terreno una nuova realtà di fatto. Noi non possiamo escludere che la scelta del presidente Trump sia per accelerare questi cambiamenti in corso e riavvicinare Israele al paese più importante del mondo sunnita con un doppio passo su Gerusalemme, il primo del quale avviene oggi. Bene, Oscar. Sono totalmente d'accordo con l'interpretazione di Maurizio Molinari, perché le reazioni che abbiamo avuto ieri larghissimamente prevalenti, cioè quelle di considerare questa decisione come un puro moto di un matto, secondo me ignorano un'analisi ponderata che va fatta di questa situazione. Gerusalemme capitale, per così dire, è unita a Israele e dal 7 giugno 1967, quando Dayan insieme alle truppe di Israele contro i giordani portarono a quell'unificazione, ed entro pochissimi giorni a Al-Haram Sharif i musulmani pregavano regolarmente e gli ebrei pregavano regolarmente il muro del pianto. Dal 1983 è la rivendicazione ufficiale più formale di Gerusalemme Est come capitale dello Stato della Palestina. Abbiamo avuto due intifade nel frattempo il ruolo dell'Iran e della Russia è tornato a essere quello del cartario in Medio Oriente. Tante cose sono cambiate, ma lo stallo non si è mai superato ed è uno stallo che dura da decenni. Io credo che se fatta con intelligenza questa mossa, al di là della reazione immediata di tutto il mondo della Lega Araba che si accende, può essere un passo per far tornare un ruolo anche dell'Occidente nel Medio Oriente e per passi avanti in un processo che è in stallo per la parte palestinese da decenni. Invito tutti quelli che considerano questo annuncio come una follia americana a ragionare un secondo, a vedere come vedrà fatto. Sta di fatto che noi allo stallo abbiamo assistito per anni senza fare niente, anzi per decenni. Progressivamente come Europa ce ne siamo disinteressati, e mentre altri non hanno fatto così, e l'egemonia dell'Iran nell'area secondo me non è una buona cosa con questo corridoio aperto oramai da Teheran al Mediterraneo sotto l'egida russa. Ecco, mi limito a dire questo, vedremo le parole che saranno usate, e do un consiglio ai nostri ascoltatori: se volessero approfondire i temi di Gerusalemme, il miglior libro a mio giudizio uscito recentemente è un bel librone di Eric Klein, che è un grande archeologo che ha fatto decenni di campagna a Gerusalemme di scavo, ed è uscito pochi mesi fa per Bollati Boringhieri, si intitola Gerusalemme assediata, ed è la miglior cronaca con grande equilibrio politico dei, pensate, ben 185 conflitti e prese della città che dal 1350 avanti Cristo sono documentati fino agli ultimi giorni. È un bellissimo libro e ricorda anche tutti i motivi per cui le tre religioni del libro hanno in Gerusalemme, come è evidente, un punto di riferimento che divide nella storia, ne fa una delle parti, per così dire, tre, no, più contese nella storia, sanguinosamente contese. Ma dall'altra parte non ci deve far dimenticare che da decenni noi siamo stati qui a dar giudizi facili, ma a vedere il nostro ruolo pari a zero. Il nostro ruolo di cooperatore attivo, non sto dicendo il nostro ruolo per influenzare impropriamente, ce ne siamo semplicemente fregati, e questo è un gravissimo errore, perché nel Mediterraneo ci siamo anche noi. Direttore Molinari, le reazioni internazionali sono state molto dure anche da parte dell'Europa, voglio dire, per citare gli estremi delle due anime diverse, Macron e Erdogan. Il mondo arabo come potrebbe reagire e come sta reagendo? Cioè, questa, i paesi... questa è la chiave dell'impatto che darà la misura dell'impatto dell'intervento di Trump. Le reazioni più dure, se noi vediamo la terminologia adoperata, sono arrivate dalla Giordania e dalla Turchia, e questo dà un'idea della sfida che Trump pone. Perché? Perché la Turchia ha l'ambizione di tornare a essere la vecchia potenza ottomana egemone in Medio Oriente, e vede nella battaglia sul futuro di Gerusalemme uno strumento per imporsi come leader dei sunniti in alternativa all'Arabia Saudita. La Giordania è erede della divisione del Medio Oriente creata dalle potenze coloniali, la Gran Bretagna e la Francia, con gli accordi di Sykes-Picot. Quindi la realtà è che i paesi più contrari esprimono due ordini del Medio Oriente che hanno profonde radici nel passato. L'Egitto di Al-Sisi, con il quale ieri il presidente Trump ha parlato, ha scelto un profilo molto basso. L'Arabia Saudita ha scelto un profilo ancora più basso. Se questa divaricazione rimarrà, sarà un'indicazione di quanto sta avvenendo dentro il mondo arabo sul tema del conflitto arabo-israeliano, ovvero la possibilità che all'interno del mondo sunnita emerga un fronte estremamente realista, favorevole alla soluzione dei due stati, ma favorevole ad arrivare in fretta a questo obiettivo, sfidando i tabù che fino a questo momento l'hanno reso impossibile, a cominciare dall'affermare quello che tutti sanno, che cioè Gerusalemme è la capitale dello Stato di Israele. E allora vedremo se il discorso di Trump ci ha dato una traccia per interpretare cosa accadrà. Conterrà il riferimento a due stati, quindi a due capitali che nascono in qualche modo, si rilegittimano contemporaneamente. Grazie a Maurizio Molinari, lo abbiamo preso al volo prima di entrare in un convegno, quindi lo restituiamo ai suoi doveri la mattina. I numeri per intervenire, gli argomenti non mancano. 800 24 00 24 per le vostre chiamate in diretta, come sempre 349-238-6666 per i vostri messaggi. Come sempre, tanti temi, ovviamente quelli nuovi che vi segnalo sono il caso Barracciu, con le polemiche correlate su politica e antipolitica, il caso Gerusalemme, uscire o no da una crisi, il caso IKEA, con la voce di Marica Ricutti che abbiamo fatto sentire, la madre che ha chiesto il cambio di turno, non l'ha ottenuto, ha in qualche modo continuato ad applicare il suo vecchio orario ed è stata licenziata. Questo è veramente un grande dilemma shakespeariano, riguarda il diritto al lavoro ma anche le relazioni fra dipendenti e lavoratori. Oscar, qual è la prima miccia che ci dai che non abbiamo acceso ancora? Guarda, il caso del reintegro del macchinista dell'ATAC che nella scorsa estate trascina una avvocatessa bielorussa che è da poco, da un anno in Italia, a una stazione e la trascina oltre la stazione sulla massicciata perché lui è distratto mentre avvia il treno e quindi questa signora resta imprigionata nelle porte, viene trascinata sulla massicciata, perde tutti i denti, è bloccata su una sedia a rotelle, nell'azienda l'ATAC che ricordiamolo ha concordato in continuità né il macchinista né i suoi colleghi né un sindacato si fa vivo con lei. Nel frattempo adesso l'azienda lo reintegra sia pur non alla guida e nel frattempo durante gli accertamenti disciplinari hanno beccato che aveva anche un secondo lavoro non dichiarato, i suoi colleghi esultano. Ale. Ecco, io trovo che questa vicenda è una vicenda che fotografa semplicemente, non voglio usare toni alti, non voglio indignarmi, dico semplicemente che rimango senza parole. Innanzitutto lo ripeto, perché la signora su una sedia a rotelle, senza denti, in Italia da poco, un avvocato eccetera eccetera, nessuno si è fatto vivo con lei, invece i colleghi esultano al reintegro del macchinista col doppio lavoro. Benissimo, questa è l'Italia secondo me dei poteri collusi, come devo dire, perché neanche l'evidenza macroscopica di mancanze elementari di solidarietà umana, prima ancora che di un lavoro ben prestato, dell'attenzione nel condurre una macchina, non avere un secondo lavoro non dichiarato, niente, nulla, la realtà è sempre oltre la fantasia in Italia. Ecco, questo è il mio commento. Allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ricordate i numeri 800 24 00 24 per le vostre chiamate, ma vi ricordo anche per le meditazioni più profonde, non per riflessioni sulla mia massa adiposa, la segreteria 800 24 00 24. State ascoltando un programma offerto da Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Mattino. Allora, io oggi proporrei una sorta di lodo dei cani e dei gatti, lo propongo a Oscar e non so se lo accetterà, però il mio lodo è questo: in un paese civile il macchinista che trascina la passeggera, le produce 12 fratture, le fa perdere tutti i denti, la costringe sulla sedia a rotelle e a bere succhi perché non può masticare, in un paese civile viene licenziato perché c'è la grave negligenza, perché lui stava mangiando. In un paese civile il licenziamento della mamma, a cui non viene concesso il cambio di turno di 2 ore, cioè la permanenza del turno che aveva perché deve accudire un figlio disabile, viene revocato. Ecco, so che ci sono delle ideologie per cui non si può licenziare nessuno, no, dico, non si può tutelare nessuno. Quindi io questo spero che si possa fare. Però abbiamo una grande notizia, Oscar. Gli ascoltatori, interattori ricorderanno la storia incredibile di Virginio Castelli che attendeva il TFR della moglie da 2 anni. Oh, forse Radio 24 ha prodotto qualche miracolo. Io metterei una cavalcata delle Valchirie, una musica trionfale. Virginio Castelli è qui e ha ricevuto la prima tranche. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ma come è accaduto? Così, dopo 5 giorni che ne abbiamo parlato, Ma guardi, in pratica, sì, dopo 2 anni, 3 mesi e 4 giorni, con interessi di ritardato pagamento di 0,87 esimi, è arrivata la prima rata. Bene, quanto possiamo dire quant'era la prima rata per festeggiare insieme? Ma la prima rata, guardi, ossia, è tutto stabilito, perché poi sono andato a fare indagini, in un comma della legge di stabilità del 2014, ossia fino a 50.000 euro lordi pagano la prima rata. Oltre il 50.000 va una seconda rata, se uno arriva a 100.000 euro, tre rate. Bene, qui sono due, la prima è arrivata, ma pensa che abbia potuto influire il fatto che lei ha raccontato a questi umili microfoni questa vicenda? Avrà smosso qualcuno nell'ingranaggio della burocrazia? Io vi ringrazio, perché tra l'altro si è mosso anche tramite voi l'onorevole Di Battista, che era presente con lei in studio quel giorno, il quale mi ha detto che sta vedendo di fare un'interrogazione parlamentare, e a prescindere dal mio caso personale sarei felice se riuscisse a smuovere questa situazione, ma per tutti gli statali, per tutti, ecco. Logicamente il vostro intervento, il mio intervento, ha mosso qualcosa. Lassù qualcuno ci ama. Grazie Virginio, grazie, forza. A voi comunque. E a questo punto abbracci. Ci costituiamo in sportello di magari, diritti civili. Avete d'accordo. Problemi con la liquidazione, non sono vi arriva d'accordo. Il bollettino, ma dobbiamo non fare anche avete questo. La reversibilità, chiamate i cani e i gatti. Poi se arriva l'invettiva di Oscar, che allora fu folgorante, proprio arriva come un ultrasuono, no, che attraversa magari, i palazzi. Magari andiamo avessi, a prendere quella pratica. Avessi la facoltà di avere di pratica Magari. Ma ti ricordi che invettiva? Beh, diciamo fatto. Che io considero. Io ci sono tornato anche il sabato successivo su questo stesso tema, perché adesso non è che come sono statali devono essere. Questa cosa che lo Stato li ritarda di anni la corresponsione del TFR, e in più le banche anticipano la corresponsione del TFR, naturalmente facendosi gli interessi sopra. Capita che è una cosa che è inascoltabile per definizione. Noi dobbiamo pagare, come è giusto, al secondo preciso, tutto quello che lo Stato ci chiede, e lo Stato dice ai suoi dipendenti: no, adesso aspetti anni per avere il TFR. Ma roba da matte. E allora ricordate 800 24 00 24 per chiamare. E hai visto questa notizia sul Sole, su cui vorrei tornare, di che cosa sta accadendo con la fattura elettronica? Per fortuna che è stato fatto un questionario oggi sul Sole, che spiega, perché molti non sanno neanche, la posso emettere? Cioè, la prima domanda che uno si deve fare in Italia: se ho il mio programma di gestione, mi tengo la contabilità da solo, posso emettere la fattura elettronica? Cioè, ti rendi conto un paese in cui uno si deve fare questa domanda? E per fortuna c'è la casistica, che ora ricordo, pagina 5, il Sole, se avete dei dubbi, tipo: sono il titolare di un ristorante, se un cliente mi chiederà nel 2019 l'emissione di una fattura, dovrò comunque emetterla in formato elettronico? Siamo una piccola impresa che vende prodotti termoidraulica. Per adempiere ai nuovi obblighi possiamo inviarli con il nostro gestionale via mail? E sono tutte domande che uno si deve fare in questo paese, perché le normative cambiano come una battaglia navale. Adesso no? Poi c'è questa nuova circolare operativa che dà le istruzioni alla Guardia di Finanza, le istruzioni vincolanti, la numero 1 del 2018, si porta avanti lo Stato, anche se siamo ancora nel 2017, ed è sui controlli su quali tipi di documenti informatici possono essere oggetto, anzi devono essere oggetto delle attenzioni della Guardia di Finanza per noi contribuenti. E la cosa è molto interessante, perché si autorizza la Guardia, anzi la si indirizza, a cercare indirizzi di evasione, cari ascoltatori, tra tutto ciò che avete usato un cloud, tutta la tracciabilità di tutti i vostri attuali o ex tablet, tutte le vostre applicazioni di messaggistica, tutto ciò che anche indirettamente in backup avete archiviato in ogni forma fuori dal vostro computer. Naturalmente niente di male, non sto dicendo, però è molto istruttivo il fatto che le istruzioni date ai segugi fiscali dello Stato si adeguino alle forme di cloud di riproduzione multipla. Ripeto, cari ascoltatori, anche automatica nei vostri programmi e nei vostri software di backup. Voi non ve ne rendete conto, magari crederete di aver lasciato bozze in giro che poi avete superato con il vostro consulente e avete modificato le vostre strutture contabili, avete modificato quindi gli adempimenti. Magari siete in regola, ma state molto attenti, perché se avete lasciato, anche senza saperlo, controllate il software, delle bozze di fattura precedenti che poi non sono quelle corrette che avete usato dopo averle sottoposte al vostro consulente, lo Stato troverà quelle e le considererà prove di elusione o di evasione. Quindi da oggi dovete tutti avere una quadruplice attenzione: primo a quello che fate, e certo, primo per quello che fate dichiarandolo e che risponderà il primo livello, secondo quello che resta nei vostri computer delle basi su cui vi siete confrontati con il vostro consulente, terzo di ciò che avete backupato prima, quarto di ciò che i vostri software backupano senza che voi lo sappiate, perché voi diventerete, in altre parole, accusati dai vostri computer automaticamente, come è peggio, cari ascoltatori maschietti fedigrafi, di quanto facciano i vostri telefonini quando andate con le amanti senza dirlo alle mogli. Quali amanti? I nostri ascoltatori? Sono tutti fedeli? Va bene, allora io ne prendo atto, ma non ci credo. Va bene. Popolo di virtuosi interattori. Roberto da Bologna. Della trasmissione. L'unica fedeltà che c'è in questo momento. Ah, l'unica addirittura. Sì, bene, bravo Roberto, bravo. Io vi ammiro. Alla mattina ascoltavo Milan, adesso ho sostituito Milan con Telese, poi mi è sempre piaciuto, soprattutto sotto elezione, peccato per quei disguidi, ma che disguidi? Si sbaglia, si paga, non si preoccupa. Ma tutte le volte che la sento, quando parla, ha una terminologia che mi stupisce, anche in questo caso riguardo ai backup. A discorsi magari che vengono letti, ha proprio una preparazione di fondo che è pazzesca. Ringrazio, però grazie, non credo, Roberto, che abbia telefonato solo per elogiarci. No, ma ne approfitto perché, ripeto, ci sono giornalisti, diciamo così, faccio anche l'esempio di Barisoni, che per me è una persona molto preparata, la sua trasmissione è consigliabile, ecco, a tutti i risparmiatori invece che magari le azioni subordinate della banca. Roberto, così ci fai svenire. Direttore. Credono che sia uno di noi che chiama. Roberto non è pagato da Radio 24, è un cittadino libero. Avete un palinsesto che è pazzesco. Se uno vuol ridere alle 6:30 si collega con la zanzara e fino alle 9:30 è meglio che una trasmissione di Skype. Grazie. Comunque, allora, cosa volevi dire oggi? Questa cosa che stamattina mia. Non ci pensavo neanche. Io volevo solo portare il paragone tra i due tipi di comportamenti dell'attacco e dell'IKEA, cioè nel senso che è stato reintegrato una persona che ha causato un danno probabilmente irreparabile a una persona per colpa grave, se è stato accertato così, a prescindere dal secondo lavoro, ma per mancanza, per colpa grave, mentre dall'altra parte magari c'è una persona che aveva veramente il volere accudire una persona, il figlio in questo caso, che non è autosufficiente, per un cambio di orario ed è stato licenziato. Cioè, sono due comportamenti che sono pazzeschi. Uno è quello che ha detto Giannino, un potere, un gioco di potere che va oltre l'inimmaginabile, che è quello dell'azienda dell'ATA, commissariata con un miliardo, adesso non so, 1,3 miliardi. Insomma, sono anche questi, sono crediti imposti che iscritti in bilancio che sono non pagabili, ecco. Sì, sono in larghissima misura inesigibili, sì. Sì, sono inesigibili e viene reintegrato magari col plauso dei sindacati e dei colleghi quando ha rovinato una persona. Cioè, e la cosa che più mi ha colpito nell'intervista che citava Oscar è che la signora fa un esempio, immaginate cosa fosse accaduto se questo trascinamento avesse coinvolto un bambino. Sarebbe stato spappolato. 12 fatture al bacino, impossibilità di camminare. Grazie Roberto da Bologna. Michele da Roma. Buongiorno, Talese, Giannina, buongiorno. Sì. E io vi faccio meno elogi perché comunque, insomma, sono, diciamo, l'ascolto che fate, diciamo, parla per voi. Volevo però essere in disaccordo sia con l'ascoltatore di prima che con Giannino sulla questione del reintegro. Non è il reintegro perché è una sospensione della procedura disciplinare che aveva in corso il lavoratore. Non conosciamo i fatti, ma abbiamo visto tutte le immagini. Dalle immagini si evince come non solo, diciamo, il treno era molto lungo, non solo era buio come spesso in metro, ma che quello che non ha funzionato sono i sistemi di sicurezza. Cioè, le porte non dovevano permettere il fatto che il treno ripartisse. Ora che l'autista, per purtroppo sua sfortuna, si trovava alla guida, non è riuscito con la coda dell'occhio a vedere tutto il treno, ma i sistemi di sicurezza gli hanno consentito di ripartire, è stato fatto quello che doveva essere fatto, cioè la sospensione, sono stati fatti gli accertamenti. Al termine di questi accertamenti, mi dispiace per la signora, ma il povero macchinista, credo che sia stato rimesso al suo posto, non alla guida, ma in un altro posto, diciamo, dell'azienda, perché non sono state rinvenute. Michele, ma poteva fare una lettera di scusa. Questo non attiene alle procedure, però. Posso farle una domanda? Mi colpisce una cosa, c'è una signora straniera peraltro che vive fra dolori atroci, deve nutrirsi di succhi di frutta, non ha ricevuto una chiamata né dall'azienda né dal macchinista. Posso farle una domanda? Lei dice che non sappiamo tutto quello che non vuole prendere in considerazione, poi parla a difesa come se sapesse. Le faccio una sola domanda. Sì. Visto che sappiamo con certezza che mangiava mentre conduceva. Non lo sappiamo? Non ha visto neanche le immagini, allora. Io credo che chiunque... Le immagini le ha viste? Sì, le ho viste. Non ha visto che mangiava? Io credo che... Ha visto che mangiava o non ha visto che mangiava? Sì, ma che il fatto che mangiava... Ha visto che mangiava, punto numero uno. Punto numero due, secondo il regolamento di servizio, il macchinista mangia alla conduzione, risposta sì o no? Ma non stava pranzando. Risposta sì o no? Io non so risposta cosa mangiate, sì o no. Allora, lei sta facendo una difesa di parte dicendo che noi non sappiamo delle cose. È ovvio che noi non conosciamo i documenti in base a cui l'indagine disciplinare lo reintegra. No, mi scusi lei. Perché se lei dice non sapete e parlate e lei parla a difesa, io mi limito a dire quello che tutti abbiamo visto, prendendo per buono che ci sono valutazioni che nell'indagine disciplinare chiusa con il reintegro, si chiama reintegro, dice che non è reintegro, invece è reintegro, allora chiusa con il reintegro, quello che abbiamo visto è che intanto mangiava ed è in plateale violazione del regolamento di servizio, almeno questo. Quindi se lei non ammette neanche questo, mi vengono i dubbi sul punto di vista che sta esponendo. Non lo conosco, non lavori in atto, quindi non c'è nessun interesse, si figuri. Ma non è quel... Giannino? Sì, certo, sono qua. Il discorso è... Il punto è, però, mi scusi, in quel caso quello che non ha funzionato davvero sono i sistemi elettronici di sicurezza. Cioè il treno non doveva partire se la porta non era chiusa. Caro ascoltatore, su questo sicuramente possono esserci potenziamenti del caso, bisognerà vedere se i rilevatori hanno funzionato o meno. Noi non stiamo parlando di questo, noi stiamo parlando del dipendente, mentre lei vuole sviare la cosa del dipendente, difendendo il reintegro. Io no, e non la faccio sviare, perché tutto ciò che è concomitante si verificherà. Noi per il momento siamo in presenza di una decisione del reintegro di fronte a elementi che apprenderemo a se ci danno l'accesso agli atti, ma intanto quello che era evidente è che mangiava. Punto. Lei se mi dice c'è altro è perché non vuole che la gente neanche mentre mangia, mentre guida, venga sanzionata. Io penso che mangiare mentre si guida sia un atteggiamento, come del resto è prescritto, che non è consentito. E quindi se c'è una violazione patente, perché l'abbiamo vista tutta guardando le immagini, mi aspettavo altro. Non sto dicendo che mi aspetto che venga rovinato a vita tutto quello che vuole lui. Ci saranno poi le parti penali, il procedimento, quello civile, tutti accerteranno. Ma qui siamo di fronte a un reintegro e ai colleghi che applaudono. Punto, tutto qui. Allora arrivano anche messaggi sulla vicenda della lavoratrice l'IKEA e la domanda è: avete sentito l'IKEA? Pare che la signora non fosse proprio così rispettosa dell'orario di lavoro. Ho letto questa vicenda nel dettaglio, ho raccontato quali sono le due versioni, ma qui c'è una sola versione, cioè la signora ha un figlio disabile, ha avuto per tanti anni l'orario delle 9 che gli consentiva di accudire il figlio disabile e accompagnarlo a scuola, è stata trasferita alle 7, ha chiesto il trasferimento, il cambio del turno che come sapete viene assegnato con un complicato algoritmo, non le è stato concesso ed è stata licenziata proprio perché, non ottenendo il cambio del turno, è andata a lavorare per due volte, credo due, con il vecchio orario, quindi presentandosi 2 ore più tardi al lavoro. Ovviamente il tema non è questa trasgressione. Il tema è la possibilità, di fronte a una persona che ha dei problemi, di chiedere gravissimi certificati non negati all'azienda, di chiedere di ottenere un cambio di turno. Ma aggiungo una cosa: nel 90% delle aziende queste cose accadono, nelle piccole aziende perché c'è il buon senso del datore di lavoro che conosce le storie, nelle grandi aziende perché è facilissimo far turnare il personale per liberare un turno. In questo caso, non nel caso di una signora che dice ma voglio entrare alle 9 perché devo fare shopping, nel caso di uno che ha una patologia certificata ai sensi della 104. Allora, Angelo, da CL... che cos'è? Caltanissetta. Vedi, giornalista politico che associa CL non a una provincia ma a un movimento. Sì, ho avuto uno shock, Angelo da CL. Buongiorno e complimenti sempre per la trasmissione che seguo e che mi fa compagnia durante i miei trasferimenti al lavoro. Bene. L'argomento che state parlando è molto interessante e tra l'altro diciamo ci tocca molto nel mondo dei call center, soprattutto dopo quello che è risaltato alla cronaca per i licenziamenti, 1600 licenziati a Roma della più grossa azienda di call center, Almaviva Contact, di cui recentemente 153 sono stati reintegrati con sentenza del giudice, solo che l'azienda li ha spostati da Roma a Catania. Quindi diciamo il reintegro gliel'hanno accettato, ma come se di lavoro nuovo, anziché reintegrare nello stesso posto, li hanno spostati a Catania. Questo qua, diciamo, con problemi di reintegro ci sono sotto tanti punti di vista. E condivido in pieno quel discorso della mamma con disabilità che gli sia concesso due ore, come diceva, dice, nelle piccole aziende ma anche in grandi aziende, perché anche Almaviva per esempio da questo punto di vista invece lo fa, in casi particolari di questi il cambio orario glielo fa, cioè non si pone il problema. Oscar, mi sembra, condivido, sottoscrivo punto, cioè ci sono delle cose di fronte alle quali le opinioni espresse secondo me hanno un condensato di ragionevolezza su cui non contano le sfumature di diversità. Ci vorrebbe un mondo in cui la ragionevolezza si affermasse, per così dire. Chissà anche in quel caso, Luca, quale diavolo di testuale applicazione di norme impedisce una cosa che tutti noi sembra elementare, ragionevole, no? Come dire, chi lo sa, ci vorrebbe davvero una spiegazione che dicesse perché la ragionevolezza non prevale lì. Bah. Senti, qualcuno ti chiede di citare di nuovo il titolo del libro, sì, su Gerusalemme, perché vedi, no, sei un pieno di curiosità. Di l'autore è Eric Klein, quindi ovviamente scrive Klein, che è, insegna alla Washington, alla George Washington University, ed è, ha compiuto più di 30 anni di campagna di scave a Gerusalemme. È un grande archeologo, Eric Klein. Il titolo è Gerusalemme assediata, dall'antica Canaan allo Stato di Israele. Bollati Boringhieri ha tradotto e aggiornato questo libro che negli USA era uscito nel 2004 ma è uscito nel 2017, all'inizio dell'anno, ed è bellissimo. Naturalmente è un libro corposo, in corpo piccolo, 420 pagine. Ripeto, noi abbiamo documentato su Gerusalemme da reperti storici e fonti e resti nell'evoluzione dalla Gerusalemme proto-urbana fino a quella di oggi. La bellezza di 118 assedi, conquiste, la città rasa al suolo e conflitti dal 1350 a.C., quelli precedenti non sono documentati ma li conosciamo, almeno 118 conflitti per contendersi, assediare, conquistare, sterminare gli abitanti di Gerusalemme nella storia. Mio consiglio invece è un libro sul pomodoro. Ha scritto un ricercatore francese, Jean-Baptiste Mallet, intervistato oggi da Borgonovo, perché racconta questo paradosso sull'oro marcio, l'oro rosso marcio, e cioè che l'Italia è il maggior produttore mondiale di pomodoro, realizza il 77%, non lo sapevo. Vedi? E però importiamo concentrato dalla Cina. Ora, niente di male, signori, non sono protezionista, sì, non voglio il fulmine di Oscar che mi dice protezionista, certo. Però se usate il pomodoro concentrato e arriva dalla Cina, come dice chiunque abbia buonsenso, scrivetecelo sull'etichetta, perché io voglio sapere se mi piglio il pelato italiano oppure il succo concentrato che arriva dalla con me. Provincia il pelato cinese. Italiano sono io difendo i pelati italiani, no, ma... Vabbè, ma, Oscar, ma abbiamo un pubblico selezionato, queste sono battute da bagaglino. Ma perché tu italiano, che hai i capelli devi avere più successo con le femmine? Questa è la mia domanda. Sono finti. Hai i tuoi successi con le femmine? L'ho ammesso, l'ho ammesso. Notiziona finale. 8:56 6 minuti, cani e gatti vi salutano, vi danno appuntamento a domani. Il pensierino di Oscar. Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano. Sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi, per i miei fratelli e i miei amici io dirò Shalom su di te. Salmi, primo libro di Salmi, 2, 6, 8. Penso a questo oggi. Ieratico. Ciao.